Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, 68esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Domenica 24 febbraio 2013 e oggi è l'ultima puntata del primo anno in onda. Ebbene sì, stiamo per compiere 12 mesi di Restiamo Animali, un anno insieme. Un bel traguardo, non vi pare? E oggi, oltre a proporvi tanti servizi che ci porteranno anche molto lontano, vogliamo presentare la nostra nuova collega e redattrice Francesca Levi, che saluto. Ciao Camilla. Ciao Francesca. Ci racconti qualcosa di te? Sono vegana da un po' di anni, sono di Milano, e mi sono da poco trasferita a Firenze. Tramite Facebook avevo preso contatto con dei ragazzi vegani che poi mi hanno presentato il gruppo di acquisto Gas Vegando e lì ho conosciuto anche alcune persone della redazione di Restiamo Animali e quindi è nata questa piccola collaborazione. Speriamo che diventi grande questa collaborazione. So che tu in passato hai lavorato attorno ad alcuni concetti che ci sono molto cari. Sì, diciamo che facevo parte di un gruppo che si occupava della non violenza. Per me la non violenza va a 360 gradi, quindi ci dedicavamo ad attività sia per il disarmo, quindi contro la guerra, ma anche poi per il consumo critico, per la difesa dell'ambiente e degli animali. E mi sembra che il cerchio si chiuda e che sia tutto molto in sintonia con gli obiettivi di questa trasmissione. Francesca ci presenta un servizio sugli chef vegabondi milanesi. Inoltre vi parleremo di ciliegia, vedremo da vicino un cane con due zampe e due ruote e intervisteremo Andrea Cisternino, perché venerdì 15 febbraio scorso siamo stati a un incontro a Scarperia organizzato dall'associazione Vivi e Vegeti, vegetariani e animalisti del Mugello, che avevano invitato Andrea Cisternino, fotografo di Kiev, che ha documentato e denunciato lo sterminio dei cani randagi in Ucraina in occasione degli scorsi europei di calcio, e in quell'occasione abbiamo abbracciato Andrea Battistini, il nostro eroe, l'uomo che ha digiunato più di 40 giorni per chiedere una legge contro le catene ai cani in Emilia-Romagna. Oltre all'esordiente Francesca Levi, in studio oggi con voi Camilla Lattanzi e Lorenzo Guadagnucci. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Cristina ha al guinzaglio un cane lupo, ciliegia, che deve avere avuto delle disavventure perché la parte posteriore del suo corpo è appoggiata a un carrellino. Che storia ha ciliegia? Allora, ciliegia viene dall'Ucraina, da Kiev in particolare, e è la vittima simbolo degli europei di calcio. Le hanno sparato mentre allattava i suoi 6 cuccioli, gli altri 10 cani del suo branco sono tutti morti, i suoi cuccioli sono tutti morti. Lei ce l'ha fatta perché ha una forza incredibile. Io l'ho vista al telegiornale, al TG2, dopo 2 giorni ho contattato Andrea Cisternino e dopo un po' di traversie, un po' di difficoltà e alcuni mesi è arrivata da noi. Questa è in sintesi un po' la sua storia. Lei era un cane randagio di quelli ferocissimi ovviamente, che cerca solo coccole, che vive con 2 gatti senza problemi. È uno dei tanti cani che non sono voluti. senza una reale ragione, senza un reale motivo. Come vive oggi la sua vita a Ciliegio? Io spero bene. Noi facciamo il possibile per fargliela vivere bene. Lei, il fatto di avere due ruote dietro è solamente un dettaglio per le persone che la vedono. Lei ha un carrellino che ci è stato donato da un'associazione che fa carrellini al solo prezzo di costo. Ne ha già rotti 2,5. È vivace, ha una grande energia, voglia di correre, voglia di fare, fa tutto quello che fa un qualsiasi altro cane. Il problema è delle persone che la vedono, che possono pensare che una disabilità per un cane lo renda meno degno di andare avanti. In realtà lei problemi non se ne pone. Il fatto di quando vede il carrellino si comporta esattamente come gli altri cani quando vedono il guinzaglio, è ora della passeggiata. Va come un treno, la fatica starle dietro, la fatica non è gestire la sua disabilità, ma la fatica sta dietro la sua energia, la verità è questa. Come si comportano gli altri cani nei suoi confronti? L'annusano normalmente, tutto regolare? Giocano? Sì, sì, non notano grandi differenze, l'unica cosa che notano è che lei li travolge. Non ha... Gli arrota? Sì, non ha una particolare delicatezza, infatti l'altro cane che abbiamo ogni tanto, poverina, viene travolta dalle ruote, che ovviamente in casa lei non ha modo di tenere, perché sennò travolgerebbe anche noi. Lei è un terremoto, è così, ma va bene così, finché è così va benissimo. Vedo che ha una specie di pannolone, sì. Perché ha perso la sensibilità e quindi la fa, diciamo, in qualunque momento? Esatto, lei ha fra le altre cose ha perso il controllo sfinterico, all'interno del suo corpo ancora 3 proiettili. Era piena di pallini, a Kiev l'hanno operata in quelli, diciamo, meno pericolosi. Ne ha ancora 2 a livello della coscia, diciamo, e 1 a livello della spina dorsale, che è quello pericoloso e che l'ha lesionata, sia per quanto riguarda i movimenti della parte posteriore che per quanto riguarda appunto la capacità di controllare i bisogni. Non è un problema, nel senso che quando siamo al chiuso mettiamo il pannolino per non sporcare, quindi per essere più accolti dall'esterno, sempre per il discorso del problema delle persone, della convivenza con le persone. Quando lei è in giardino non ha problemi, lei è libera, tranquilla, fa le sue cose, si sposta, si pulisce, cioè si lava quando ha bisogno, è comunque completamente autonoma, non c'è bisogno di aiutarla nei bisogni, cosa che invece alcuni cani con problematiche simili hanno. Questa è la voce di Ciliegia che ci sta dicendo che vorrebbe correre nella piazza di Scarperia, ma glielo stiamo impedendo. Decisamente, è invidiosa delle macchine perché hanno 4 ruote, lei solo 2 e quindi prova continuamente a inseguire le macchine. Questo dobbiamo ancora capire perché un giorno ce la faremo, insomma, però ha un discreto bolide anche lei e insomma si dà un po' di aria ogni tanto. Senza carrello cosa fa? Tutto quello che fa col carrello. Quindi si trascina? Sì. Però va veloce? Va troppo veloce, si trascina, insegue i gatti, rincorre persone, cose, per lei, cioè, il fatto del carrello è solamente un vantaggio per non rovinare le zampe all'esterno e per andare più veloce fuori, altrimenti per lei è indifferente. Ha potenziato tantissimo le zampe davanti, quindi la muscolatura. Abbiamo notato proprio recentemente che addirittura solleva il posteriore con le 2 zampe davanti. Quindi è un atleta micidiale, Yuri Keki la può solo invidiare. È pericolosissima da quel punto di vista. Abbiamo provato a darle un po' di esperienze normali, quindi siamo state al mare, grazie a una ragazza che aveva conosciuto la sua storia, ci ha contattato e ci ha invitato nel suo campeggio e ha scoperto che il mare le piace tantissimo, quindi siamo state anche in piscina ed è una brava nuotatrice. Siamo state in montagna, ha fatto 500 metri di dislivello, 3 ore di camminata, io ero distrutta, lei no, lì ho capito che avrei avuto qualche problema. Caspita, è una forza della natura, sì. Va detto, questo cane. Lei è giovane, avrà 2 anni e mezzo, 3, però ha una vitalità, un'energia, un carattere veramente spettacolare. Quindi l'incidente quando è avvenuto? L'incidente è avvenuto a fine del 2011 e è arrivata il 17 di maggio del 2012. Sì. E quanto è impegnativa nella vostra famiglia? Quanto tempo, diciamo, dedicate a questo cane? Sapevate di andare incontro a una cosa così? No, pensavo fosse più problematica. Ah, addirittura. Sì, nel senso che, vabbè, io ero abbastanza tranquilla e disinvolta perché poi, insomma, ci si organizza e si fa quel che si deve. Però pensavo richiedesse molto più impegno. In realtà lei richiede lo stesso impegno che richiede un qualsiasi altro cane, non di più. Lei si sdraia per farsi mettere il pannolino. Grande. Si sdraia per farsi mettere la pettorina. L'altro cane che ho non sopporta il cappottino, metto più tempo a mettere il cappottino all'altro che a mettere il carrellino a lei. Consumiamo ruote, consumiamo carrellini, perché io le passeggiate che faccio con l'altro ovviamente le faccio con entrambe, quindi è giusto che lei faccia tutte le sue uscite. Guardandoci Liege effettivamente viene in mente che l'handicap vero lo abbiamo noi e lo abbiamo più grave del suo, perché lo abbiamo proprio nella testa, nel considerare le differenze, le barriere tra specie. Cristina Anteghini, restiamo animali? Restiamo animali. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Restiamo animali e a Milano. Siamo con Francesco degli Chef Vegabondi. Sono un gruppo di appassionati della cucina, vegani, che offrono gratuitamente servizio di catering per scene di raccolta fondi, sia per realtà animaliste, ma non solo. Ed è proprio in queste scene che loro spiegano i motivi della scelta vegan e come vengono realizzati i vari piatti. Loro offrono questo servizio gratuitamente, o a volte chiedono un piccolo contributo per poi preparare del cibo che distribuiscono agli homeless e alle ragazze di strada. Francesco, quando è nato questo gruppo? Questo gruppo è nato nel 2006 da 4-5 amici che si sono conosciuti alla manifestazione del Vegan Anch'io in cucina. Con la passione della cucina ci siamo riuniti e abbiamo deciso di seguire le orme dei Food No Bomb di Forlì, e da lì è nato il nostro gruppo cucina. Chi c'è in questo gruppo? Quanti siete? Nel gruppo, come dicevo originario, siamo in 4-5 persone. Arriviamo tutti da realtà diverse. Io ero un volontario dell'EMPA, un'altra persona era un imprenditore, un altro è un programmatore, gente con storie diverse che ci accomuna in un'unica ideologia, l'antispecismo. Raccontaci un po' delle vostre attività, perché voi fate tantissime cose a Milano e non solo. Raccontaci qualcosa. Beh, la parte principale nostra è di fare una specie di catering. Questo lo facciamo gratuitamente per le realtà animaliste che ci chiedono bisogno, hanno bisogno di benefit, o anche delle realtà al di fuori degli animalistiche, e qui chiediamo un piccolo contributo. Questo contributo non serve per noi personalmente, ma serve per poi comprare del cibo per gli homeless, perché d'inverno compriamo le nostre spese, appunto con questi guadagni, e compriamo del cibo, legumi, pasta, riso, per poter distribuire, ripeto, con 10 euro diamo da mangiare a 25-30 persone. Quindi in alcuni quartieri di Milano distribuite questo cibo? Sì, ci sono dei posti a Milano che alcuni sono serviti settimanalmente da varie entità istituzionali, alcuni magari giorni loro non vengono serviti, allora interveniamo noi, ovviamente tutto di nascosto, perché sappiamo benissimo delle lobby che esistono anche in questo, nella sostentazione delle persone che vivono in strada, quindi interveniamo noi distribuendo piatti caldi che ci prepariamo o a casa di uno o magari con nostri fuochi e una cos'altra in certi spazi. Cuciniamo e portiamo cibo caldo con scaldavivande che ci siamo comprati, ovviamente portiamo a queste persone anche del tè caldo. Oltretutto non dimentichiamoci che lo portiamo anche molto spesso alle ragazze che purtroppo sono in strada, che anche loro subiscono sia violenza che anche questo uno sfruttamento. siamo tutti volontari, molto spesso ognuno ha il suo proprio lavoro indipendente e tutti di noi, molto spesso, sia per la benzina, l'autostrada o quando ci spostiamo per realtà animaliste, non chiediamo nessun rimborso. Qualsiasi rimborso viene messo in cassa appunto per sostentamento alle persone che vivono in strada, o come poco fa abbiamo scoperto una famiglia in posizione disagiatissima con 6 figli, stiamo intervenendo fornendo loro vestiario recuperato da altre persone, nostri amici o altre conoscenze, e stiamo raccogliendo legumi, cibo, latte per i bambini, ovviamente vegetale, per poter fornire, non dico settimanalmente ma mensilmente, una buona quantità. Commensali, raccontate le ricette, raccontate dei trucchi, spiegate il motivo della scelta di questi ingredienti vegetali, vegani. Beh, solitamente noi siamo propensi a dire come usiamo e cosa facciamo nel nostro cibo, perché il cibo vegan non è un cibo di elite, è un cibo povero, nel senso che fino a secoli fa gli uomini vivevano vegan, una pasta e fagioli senza la cutica ovviamente. Fino a poco tempo fa una pasta e fagioli, aglio, olio, peperoncino, qualsiasi pasta con un po' di sugo, pasta e basilico, ma qualsiasi cosa è semplice, dà energie. Le proteine sappiamo benissimo che si prendono dai legumi, abbiamo bizzeffe, fagioli, lenticchie, piselli. Quindi è solo questione di lavorarli come faceva la nostra nonna, o la semplice ricetta del dado, che noi continuiamo a dire di non prendere i dadi vegetali, ma di farseli con del sedano, della cipolla, del sale e della carota, miscelarli tutti insieme, grattugiarli con robot e metterlo in frigo. Quando uno serve vuol farsi la farina frittata, gli mette dentro questo, è come se fosse una frittata con la farina di ceci con questo dado vegetale. Quindi un'altra ricetta al volo così degli chef? Beh, la ricetta al volo degli chef, in questo periodo stiamo facendo molto il pesto alle cime di rape che Francesca ha assaggiato. Veramente delizioso! Basta prendere il frullatore, le cimette delle rape, le foglie, le cimette, nel frullatore con del sale, della cipolla o dello scalogno, mettere chi piace l'aglio, del peperoncino, frullare tutto aggiungendo metà di olio di oliva e metà di olio di girasole, finché non si ottiene una pasta tipo pesto, appunto morbida, da poter mettere così cruda sulla pasta. Attenzione, non si fa tutto olio di oliva perché sennò sarebbe troppo pesante. L'olio di girasole serve per amalgamare bene la pasta senza rendere il pesto pesante. Allora, grazie Francesco e grazie agli chef e restiamo animali! Vai. Delle vittime della caccia di questa stagione venatoria, i dati sono quelli del sito vittimedellacaccia.org. Dal 1 settembre al 31 gennaio 2013, quindi 62 giornate venatorie effettive, abbiamo 21 morti e 97 feriti in ambito venatorio, quindi un totale di 118 vittime, e in ambito extravenatorio, quindi coloro che puliscono armi, epilogo di violenza domestica, liti familiare o di vicinato, raptus o depressione, laddove si trovano delle armi da caccia in casa, abbiamo un bilancio di 11 morti e 22 feriti, in totale 33 vittime. Qual è il suo commento? Sono tutte vittime che si potrebbero evitare. La caccia è un'attività inutile e crudele, non ha nessuna ragione nella nostra cultura, nella nostra società. Non esistono più neanche gli spazi naturali di un tempo, il territorio è antropizzato, è diventata un'attività anche molto pericolosa per la specie umana. Alcuni tipi di caccia, poi in particolare, come la caccia grosso il cinghiale, che determina l'occupazione del territorio da parte di un gran numero di cacciatori, un gran numero quindi di armi, zone boscate dove è difficile riuscire a distinguere gli animali che si spostano, le persone che si spostano, e soprattutto l'altro grande pericolo è la vicinanza di strade e abitazioni, non solo per motivi quello che riguarda la difesa degli animali, ma anche per la difesa delle specie umane, la caccia sarebbe da abolire. Che si ha un'idea del giro d'affari dal punto di vista delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento da caccia? Tra tesserino, armi, licenza di caccia e quant'altro, abbigliamento, un'annata venatoria costa al cacciatore non meno di 600-800 euro. E lei capisce, sono 750.000 i cacciatori in Italia, questo determina sicuramente un grosso business, un grosso indotto. L'Italia è uno dei maggiori esportatori di armi e di produzione di armi, le armi da caccia costituiscono tuttavia una piccolissima percentuale del mercato delle armi. I giovani provano ancora attrazione per la caccia? Ci sono dei dati sull'età media dei cacciatori? L'età media dei cacciatori ogni anno aumenta, arriva intorno ai 60 anni. La caccia finirà perché finiranno i cacciatori. Speriamo che finisca perché finiscono i cacciatori e non perché finiscono gli animali. La caccia costa, il numero dei cacciatori in Italia erano 2 milioni negli anni 70, oggi siamo a 750.000 e questo deriva anche dal costo dell'attività venatoria, ma deriva anche dalla crescita culturale. L'attenzione e la sensibilità verso gli animali è in crescita, il cacciatore si sente sempre di più in un angolo, sempre di più criticato, non è più accettato dalla società civile. Uccidere un animale per divertimento, la società civile questo non lo accetta. Esiste ancora l'arcicaccia? Assolutamente sì, è l'anima venatoria della sinistra. Il responsabile della fauna selvatica e della biodiversità del Partito Democratico è Marco Cerafoni, che fa parte dell'arcicaccia, quindi molto forte e presente l'arcicaccia nelle regioni centrali dell'Italia. La visione della caccia è trasversale in tutti i partiti. La maggioranza dei cittadini italiani, questo lo dicono i sondaggi, oltre il 70% degli italiani è contrario all'attività venatoria e favorevole all'abolizione dell'attività venatoria. Quindi le forze politiche più sensibili alle istanze dei cittadini sono più disponibili a intervenire per abolire o limitare l'attività venatoria. Molto dipende poi dalle singole persone. E siccome è in crescita nella popolazione la sensibilità verso gli animali, anche tra i politici è in crescita la sensibilità verso la fauna selvatica e quindi l'avversione verso l'attività venatoria. Io sono convinto che con la prossima legislatura per la fauna selvatica qualcosa cambierà, non potrà più essere nulla come prima, ne sono assolutamente convinto, entreranno in Parlamento anche persone meno legate alle attuali lobby e gli interessi, i cittadini conteranno di più e probabilmente potranno determinare scelte diverse da parte della futura amministrazione. Il vero problema della caccia è la caccia esercitata dai cacciatori dei paesi occidentali, in testa ci sono americani, giapponesi e italiani, che vanno a cacciare non solo nei paesi dell'est, ma nei paesi del terzo mondo, sfruttando il potere economico. I paesi del terzo mondo svendono all'economia occidentale quello che resta dei beni naturali e quindi anche della fauna alle potenze occidentali. Quindi il vero problema è la distruzione della fauna nei paesi dell'est e nei paesi del terzo mondo grazie al potere economico dei paesi occidentali. Gli italiani non vanno più a caccia in Italia, vanno a caccia all'estero. Prima che tu spari c'è una cosa che io devo dirti, sono l'unico rimasto in tutto il mondo. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Lo scorso venerdì 15 febbraio la redazione di Restiamo Animali si è recata a Scarperia, dove l'associazione Vivi e Vegeti, vegetariani animalisti nel Mugello, ha organizzato un incontro con Andrea Cisternino, fotografo di moda e reporter, che ha svelato al mondo il retroscena degli europei di calcio 2012. diffondendo le foto della strage di cani randagi che ha avuto per teatro la città di Kiev. Strage sembra voluta dal governo dell'Ucraina con la complicità della UEFA. Andrea presentava in quell'occasione il suo libro di magnifiche e dolorose foto scattate in Ucraina, intitolato Randagi, storie di uomini e animali. Andrea, in che modo metti in relazione l'animale umano e l'animale non umano? Questo libro è nato perché, girando per le strade di Kiev o le strade dell'Ucraina, ho visto che sia gli animali che gli uomini, nel momento del bisogno, facevano le stesse cose. Quindi l'umano randagio praticamente sorrideva alla gente per farsi dare due monetine e il randagio cane scodinzolava. E poi ho visto molti clochard, quindi molti randagi umani, cercare nei bidoni e far mangiare prima i cani e dopo mangiare loro. Quindi, siccome io ho sempre detto che la vita è vita, non c'è vita di serie A, non c'è vita di serie B, quale migliore occasione di far vedere alla gente tramite la fotografia, che chiaramente la macchina fotografica, come diceva un mio vecchio maestro di fotografia, è un'arma molto potente, un'arma pacifica ma molto potente. Ho deciso di iniziare a girare le strade, a fotografare questi animali, questi randagi, e poi non di fare una sezione randagi umani, una sezione randagi animali, ma mischiarli in modo che queste vite venissero mischiate, ed è nato questo libro, Randagi, storie di uomini e animali. Diciamo che comunque l'Ucraina è molto difficile a livello di vita per le persone, perché c'è anche comunque un disinteresse proprio delle autorità verso gli umani. Poi si va fuori da Kiev, ci sono un sacco di problemi, addirittura tolgono l'acqua per due giorni o la corrente per due giorni, e la gente la vedo molto rassegnata. Comunque, al di là dei clochard, comunque ci sono veramente molte persone che stanno molto male in questo paese. Però la cosa che mi ha colpito molto è proprio che anche le persone, al di là dei clochard, nonostante, come i volontari di strada, che sono persone che non hanno una lira, aiutano gli animali. Quindi la cosa molto strana è che l'uomo, nel momento del bisogno, stranamente aiuta l'animale. Perché forse anche i clochard stessi, come lì raggiungiamo 35 gradi sotto zero, quest'anno è andata bene, faceva caldo, siamo arrivati a meno 18. Quindi questi umani, probabilmente i clochard, loro si scaldano con gli animali. Hanno una simbiosi e sopravvivono insieme. Infatti addirittura i clochard, io parlo con molti clochard quando vado a fotografare i cani o quando vado anche a dar da mangiare i cani, ogni randagio ha un nome, li chiamano per nome, li sfamano, ed è una cosa bella che una persona che non ha niente faccia mangiare prima il cane randagio e poi mangi lui. Questa è una cosa molto bella, ed è questo che si è perso di vista. Cioè, quelli che hanno tanto hanno perso di vista proprio questo valore che è la vita. Prima che l'europeo venisse assegnato all'Ucraina insieme alla Polonia c'erano tanti randagi. Io, nel mio libro, ci sono tanti branchi che non esistono più, sono stati massacrati tutti. L'Ucraina aveva bisogno di soldi fuori dalle grandi città, ma anche addirittura a Kiev. Quest'anno è arrivato stranamente l'esercito a pulire le strade, ma di solito si cammina sul ghiaccio. Io ho comprato le catene per le scarpe perché io mi sono fatto male due volte. E si cammina, perché tanto il governo ucraino dice, vabbè, ma tanto ad aprile si scioglie, perché devo spendere soldi? E infatti loro stanziano anche molti soldi per i cani, circa 30 milioni di grivene all'anno, e però i cani vengono uccisi e i canini non vengono costruiti. E dove vanno a finire questi soldi? È sempre la solita storia. Questo signor Martin Kalle, dirigente UEFA, dice: noi non tolleriamo la violenza sugli animali, perché avevano visto le prime foto che giravano, però dove si svolgeranno le partite di Euro 2012 non ci dovrà essere un randagio in giro. Chiaramente, se tu fai questa dichiarazione che non ha le strutture, perché non ha mai voluto costruire, perché loro non vogliono spendere soldi, quindi non sanno dove metterli, cosa devono fare, farli uccidere. Infatti quelli che hanno ucciso a parti doganti sono tutte persone che lavorano per i comuni, i lavoratori pubblici che andavano in giro, hanno fatto degli appalti, hanno vinto gli appalti, aziende comunali che andavano in giro a massacrare i cani e poi sono arrivati purtroppo i doganter. Adesso ogni cane ucciso vengono pagati 460 grivna, che sono circa 46 euro. Prima erano 33, quindi vuol dire che hanno addirittura aumentato la posta. I doganter sono, alcuni sono pagati chiaramente. Noi abbiamo preso un pensionato che abbiamo consegnato alle autorità, che aveva ucciso Lucy, che tra l'altro è un cane che io avevo salvato, e lui aveva uno zaino pieno di veleno e cianuro. Siccome un pensionato in Ucraina al mese guadagna, insomma gli danno 100 euro al mese, io penso che uno zaino di pollo se lo mangia, oppure non va a comprare il cianuro, quindi vuol dire che qualcuno gli ha dato lo zaino col pollo e il cianuro. Poi l'abbiamo portato alla milizia, la milizia l'ha liberato, e poi stranamente, non so come mai, è finito sotto un treno, vabbè. Ma il libro è nato per caso, perché essendo fotografo io sono sempre stato animalista attivista, quindi io sono entrato anche prima dell'Ucraina, sono entrato negli allevamenti di visoni, ne ho fatti chiudere due, li ho denunciati, ho fatto le foto. Secondo me l'animalismo va vissuto molto attivamente, bisogna combattere se vogliamo veramente risolvere qualcosa. Poi con l'Ucraina mi sono trovato in una cosa molto più grossa di me che non avrei mai immaginato. Era un anno che ero lì, ma non avevo mai visto niente di quello che stava succedendo, perché erano talmente bravi a far sparire questi animali, infatti poi sono riuscito a documentare anche come li facevano sparire. Poi dopo, andando in strada, invece ho fatto la scoperta che ho fatto. Al posto di uccidere gli animali si poteva costruire dei rifugi. La UEFA, che ha incassato circa 350 milioni di euro, poteva costruire qualche rifugio. È gente miliardaria e con pochi soldi potevano costruire dei rifugi. Nel 2010 la UEFA, quando è venuta a conoscenza di queste uccisioni, poteva fare una cosa sola e avrebbe risolto questo problema in un secondo. Doveva andare dal presidente, che attenzione non era Yanukovych ma era Yushchenko e Timoshenko, quindi le uccisioni e i famosi forni crematori giravano con la Timoshenko e non giravano con Yanukovych, quindi la Timoshenko è colpevole anche di questo insieme a Yushchenko, e dovevano semplicemente dire: se voi andate avanti con queste uccisioni noi vi togliamo l'europeo. Allora lo Stato ucraino avrebbe costruito i rifugi. Era una cosa da fare in due secondi se volevano risolvere il problema. Certo. Invece non l'hanno voluto fare. Perché? Perché il signor Platini non gliene è mai fregato niente. Platini disse ai volontari: andate da Brigitte Bardot, non venite da me. Io personalmente conosco tante persone dell'Ucraina che vengono a lavorare in Italia. Abbiamo un italiano che va a lavorare in Ucraina. Come vivi? È una cosa molto particolare, no? Perché, come ho detto domenica anche da Alicia Colò, che mi ha fatto una domanda simile. Infatti gli ucraini, quando io dico che vivo a Kiev, che vivo in Ucraina, dico: ma tu non sei normale, perché noi usciamo dall'Ucraina e tu resti in Ucraina. No, effettivamente io volevo tornare in Italia. Dopo circa due anni che ero lì volevo tornare in Italia, infatti non avevo neanche imparato il russo, perché tanto ho detto: non mi serve, torno a casa mia. E invece purtroppo ho scoperto quello che stava succedendo e quindi, essendo fotografo, era mio dovere restare lì a documentare, anche perché hanno iniziato anche i veterinari che mi conoscevano a chiedermi di portare fuori dall'Ucraina le immagini, addirittura mi davano loro dei video da portare fuori e far conoscere alle persone quello che stava succedendo ai loro animali. Ho deciso di restare lì e adesso vivo lì e aiuto sia i volontari e purtroppo sono rimasto coinvolto anche in una cosa molto più grossa di me, perché adesso lì è proprio un discorso, è diventato un discorso politico. Mi sono messo contro i Doganter, ho fatto una riunione a Kharkov l'altro giorno con tutte le associazioni di Kharkov, nonostante il sindaco non mi volesse, e ho detto: mettetevi tutti quanti insieme, perché se voi vi metterete insieme avrete forza e potrete portare avanti i diritti degli animali. Mi hanno chiesto di essere il loro portavoce, io sono un italiano e lavoro da solo e questa cosa mi riempie d'orgoglio, però è molto faticoso. Lavorare lì nella moda in Ucraina è molto complicato, perché loro non hanno proprio la mentalità della moda e non hanno idea di cosa sia la moda. È una moda completamente diversa da quella che ho abituato a fare io a Milano, però adesso ho ripreso anche a fare moda anche lì, anche perché mi serve per staccare un po' la testa, perché se io ogni tanto non stacco la mente da queste cose non ce la farei, perché tanti mi dicono: come fai? Come faccio non lo so, però anch'io ci sono delle sere che sono lì e piango, quindi poi ogni volta mi commuovo sempre, questa cosa devo riuscire a farla passare. Quindi la moda, il lavoro, io sono stato fermo 8 mesi con il lavoro proprio per dedicarmi anima e corpo a questi animali e a questi volontari, perché c'è anche il lato umano, non c'è solo il lato del randaggio, perché i volontari ucraini di strada vengono picchiati, vengono mandati in ospedale, gli tentano di accoltellarli, quindi se non avessi dietro l'ambasciata italiana e Frattini io veramente sarei molto a rischio, e non mi toccano solo per quello. Io avevo un cane che è morto in Ucraina avvelenato per Euro 2012, e si chiamava Cucciolo, tra l'altro il libro è dedicato a lui. Purtroppo ha mangiato anche lui il veleno dei randagi, quindi dopo 13 anni di vita insieme lui è morto. E lui è a casa mia, l'ho fatto cremare, quando sarà il momento verrà messo con me, perché gli ho promesso che non ci saremmo mai lasciati mentre stava morendo. E adesso però ho 3 cani e 2 gatti, tutti con storie bruttissime, bruttissime alle spalle. Poi in giro ho i volontari che hanno 80 cani, 50 cani, sono sempre in mezzo ai randagi, ai gatti, quindi diciamo che ne ho, poi anche perché ormai non ne posso più fare a meno. Andrea Cisternino, restiamo animali? Restiamo sempre animali. Per saperne di più, per ordinare il libro Randagi ed eventualmente fare donazioni per la costruzione del rifugio per cani Italia che Andrea Cisternino sta progettando in Ucraina, c'è la pagina Facebook Io non posso parlare ... Sei tu la mia voce, oppure il sito internet www.iononpossoparlare.com. pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao, oggi condivido con voi una mia invenzione, l'insalata cinese. È una ricetta con gli spaghetti di soia che ho improvvisato un giorno in cui desideravo mangiare cinese, ma senza sentirmi in bocca quel sapore dolciastro tipico di questa cucina. Utilizzando gli ingredienti freschi che avevo in casa, ne è uscita questa deliziosa insalata di spaghetti, da mangiare calda o tiepida. Gli ingredienti per due sono 3 nidi di spaghetti di soia, ma vanno bene anche quelli di riso, un mazzetto di puntarelle, qui le chiamiamo cicoria, 6 ravanelli freschi, per la salsina d'accompagnamento, un cucchiaio di miso, un cucchiaio di shoyu, salsa di soia, 2 cucchiai di succo d'arancia, olio extravergine d'oliva. Molto veloce questa ricetta, ma vi assicuro deliziosa. Lavate le puntarelle e tagliatele a pezzetti, non troppo piccoli. Lavate i ravanelli e tagliateli a cerchietti sottilissimi. Scaldate abbondante acqua in una pentola e quando bolle gettate insieme le puntarelle e gli spaghetti. Nel frattempo preparate la salsina sciogliendo in una ciotola il miso con un cucchiaio di acqua di cottura. Emulsionatelo con lo shoyu, il succo d'arancia e aggiungete gradualmente l'olio fino ad ottenere un sughetto omogeneo. Fate cuocere gli spaghetti e la verdura giusto un paio di minuti. A me la cicoria piace appena scottata. Scolate delicatamente con un mestolo bucato e mettete in un'insalatiera. Aggiungete ora i ravanelli, condite bene con la salsina, mescolate, con le bacchette ovviamente, e gustate subito. Ciao, alla prossima! La bella, la bestia e l'umano, con Anna Maria Rivera. Sono con Anna Maria Rivera, antropologa e autrice tra il resto del libro La bella, la bestia e l'umano, il primo testo che in Italia mette in relazione sessismo, razzismo e specismo. Anna Maria ha pubblicato più di recente un libro intitolato Il fuoco della rivolta, torce umane dal Maghreb all'Europa, che partendo dall'analisi della rivoluzione tunisina esamina il fenomeno dei suicidi pubblici per fuoco anche in altri paesi del Maghreb e dell'Europa. A dicembre Anna Maria Rivera ha pubblicato un articolo sulla rivista Micromega nel quale denuncia l'uso di fucili da parte della polizia tunisina assiliana nei confronti dei manifestanti, fucili caricati con le stesse cartucce a pallettoni solitamente utilizzate per la caccia al cinghiale e contro i cani randagi. Ad Anna Maria chiediamo di illustrarci questa vicenda. Il tema è quello della continuità fra la caccia e la guerra, potremmo dire, in questo caso la repressione di un gruppo consistente di manifestanti. A fine novembre Assiliana, che è una delle regioni interne della Tunisia, viene proclamato uno sciopero generale al quale in sostanza partecipa l'intera popolazione. Nel corso di questi giorni di sciopero generale ci furono scontri durissimi tra i manifestanti e la polizia arrivò a colpire, ad attaccare e colpire i manifestanti, per l'appunto, come tu hai detto, con dei fucili caricati a pallettoni, facendo quasi 300 feriti, e fra questi perlomeno una ventina di persone accecate totalmente o parzialmente dall'uso di questi, appunto, o di questi micidiali proiettili, di queste micidiali, per meglio dire, cartucce a pallettoni. Si scoprirà poi che queste cartucce sono di produzione italiana, sono prodotte da una casa di produzione italiana, la Nobel Sport Italia, che in realtà è parte di una multinazionale. Interrogata, la Nobel Sport Italia risponderà che di ignorare totalmente questa vicenda, e ipotizzerà che queste cartucce in realtà siano state preparate ad hoc con materiali di sua produzione da qualche armeria. È naturalmente una versione che non sta in piedi. Non è la prima volta che la polizia tunisina fa uso di queste cartucce nel corso dei disordini in un'altra località. Gli agenti spararono di nuovo con queste cartucce a pallettoni, uccidendo il vice imam e il muezzin di una moschea. Un ufficiale della gendarmeria dichiarò, e lo dichiarò per giustificarsi, badate bene, dichiarò che tutte le caserme della Guardia Nazionale dispongono di queste armi per uccidere i cani randagi. Molto significativa questa l'ammissione, poi una missione così esplicita di questa continuità. Non si tratta solo di una analogia, diciamo, no, si tratta di una vera e propria continuità fattuale. Contro gli esseri umani vengono usate le stesse armi che vengono usate per uccidere i cani randagi. Un altro elemento assai significativo è il fatto che, se voi andate a vedere sul web, troverete le pubblicità di certe agenzie turistiche che consigliano, pensate un po', proprio la cittadina di Siliana, come dicono testualmente, per un rilassante soggiorno con caccia al cinghiale, e la caccia al cinghiale richiede esattamente questo tipo di munizioni. Io ho scritto in quel post che non ci sarebbe, a questo punto, non ci sarebbe bisogno di citare Horkheimer e Adorno, perché questa vicenda parla da sola della continuità della violenza riservata, rivolta agli animali non umani, e la violenza riservata agli umani, no? Ed è una continuità che riguarda anche i produttori di queste armi micidiali, perché spesso multinazionali come la Nobel Sport sono quelle che producono sia armi destinate alla caccia dei non umani, sia armi destinate alla repressione e alla guerra contro gli umani. Io continuo a sorprendermi del fatto che non si istituisca questo rapporto, questo legame, che non si colga questo legame, e questo vale sia per il movimento pacifista, sia per il movimento ecologista, no? I produttori di armi, invece, no? Questa continuità la praticano, e come se la praticano, no? E forse si potrebbe anche aggiungere che c'è anche un legame ideologico forte fra la caccia, la repressione violenta affidata alle cosiddette forze dell'ordine, e la guerra, no? La logica, l'ideologia sostanzialmente è la stessa, e su questo forse dovremmo riflettere. Someday, someday, someday, someday.